sarebbero comici, se non fossero tragici, sarebbero comici lo zelo e l'affanno con cui in questa settimana il Presidente del Consiglio e Ministro della Difesa si sono presi la briga di smentire, o non potendo smentire, di ridimensionare, le ovvie dichiarazioni di un colonnello dell'esercito degli Stati Uniti, che aveva avuto l'impudenza di dichiarare che i nostri alpini, poveretti, stanno influendo in Afghanistan allo scopo, guarda un po', di combattere. Ma che, si sono affermati a spiegare, interrompendo le rispettive missioni in terra straniera, Berlusconi e Martino, i nostri alpini vanno laggiù soltanto per mantenere la pace. Evidentemente colpito dall'autorevolezza di tali contraddittori, l'incauto colonnello non ha ribattuto parola. D'altronde non ne aveva bisogno. Tra due mesi il contingente italiano passerà al suo comando, o a quello degli immediati superiori suoi, e a decidere cosa dovranno fare i militari italiani non saranno certo l'uomo di Arcore e i suoi tirapiedi. Sarà lui. Per i militari, si sa, combattere e mantenere la pace sono praticamente sinonimi. E il principio già caro ad Attila e a Tamerlano, per cui il vero pacifista si identifica con il soldato, è talmente diffuso in tutti gli eserciti, il nostro compreso, che gli stessi alpini in partenza per Kabul, poveretti, ai giornalisti che volevano sapere cosa pensassero del movimento per la pace non hanno saputo far altro che ripeterlo. Chi vuole la pace, dal punto di vista del militare, non può che preparare la guerra. Ma il problema con cui si sono scontrati Martino e Berlusconi era un po' più grave di quello di come interpretare un vecchio ingannevole slogan. Nell'inglese da Stato Maggiore, di fatto, combat mission e peacekeeping non sono affatto sinonimi. Tra i due termini corre la differenza che c'è tra chi pensa di limitarsi a difendere se stesso e gli obiettivi affidatigli da attacchi imprevisti, e può sperare quindi che in certe condizioni di forza basti la sua presenza per dissuadere i cattivi dal farsi vivi, e chi invece il nemico se lo va a cercare di sua iniziativa. E la differenza, in definitiva, è quella tra la probabilità di tornarsene a casa senza aver affrontato scontri armati e la quasi certezza di impegnarsi in duri combattimenti su un terreno scelto dal nemico. E che nel secondo caso le possibilità che qualcuno ci lasci la pelle siano molto più alte, non occorre essere particolarmente versati nei problemi di alta strategia per capirlo. Ahimè. Ai nostri governanti, come a tutti gli altri d'altronde, la prospettiva che i nostri ragazzi corrano il rischio di farsi fare a pezzetti dai talebani cattivi e da altri afghani riottosi non piace particolarmente. Ma avendo deciso che la presenza italiana in quel paese era indispensabile ai loro obiettivi politici e alla maggior gloria del paese tutto, e avendo delegato agli americani da bravi sudditi ogni decisione in tema di condotta delle operazioni, non possono far altro che sperare che non succeda niente di grave e nel frattempo mentire. Se caduti non ce ne saranno, avranno di che compiacersi, e noi naturalmente con loro, anche se per motivi diversi. In caso contrario sarà stata una fatalità, o più probabilmente sarà tutta colpa di quegli islamisti cattivi e fanatici che sembrano non gradire che qualcuno arrivi da alcune migliaia di chilometri di distanza a intromettersi nelle loro faccende. Nel frattempo, non avendo proprio nessun modo per influire sugli sviluppi della situazione, i sullodati non possono far altro che nascondere la testa sotto la sabbia e rifugiarsi nella dialettica dei paradossi. Che combattere, dicono con ottusa ostinazione, noi vogliamo soltanto la pace, a dimostrazione di come, con un poco di buona volontà, qualsiasi innocuo o non innocuo paradosso si possa risolvere in una clamorosa menzogna. It's all my life. I feel like life is really just like braided hair, because it's got like twist. You know about braiding? Like twist. You know?